questo amore tramonta il sole al Tahiti Bar. Fra le bande velenate dal gas, i turisti alla fermata del tram, qui nel pigia pigia la morte grigia mi dà del giù. Sono di nuovo al verde, ma non per questo mi butto giù. E col mio dolore faccio il signore al Tahiti Bar. Sono servito e riverito dal boss, segna tutto sul mio conto però, e ripenso a te sulla tua veranda alle sei di sera, a una luce accesa dall'altra parte del mare blu. Ai ai ai, ai ai ai, se stasera piango domani chi si ricorda più? E pirelli strangolati dal frac, e gli elegantoni mucciole di popolarità. Ho le scarpe strette, ma non per questo mi piace.